parte del tuo gioco assurdo, girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta per un attimo l'eternità. Perché ti amo, io non lo so, ma stai sicura che non dormirò. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci sono luci ed ombre. Come puoi lasciarmi? Oppure pensi come puoi tenermi?